Pronto? Sì, pronto. Guarda, da Castelnuovo di Porto questa mattina è iniziata una rivolta di un gruppo di ragazzi ospitati al centro d'accoglienza richiedenti asilo, che fino a qualche settimana fa era gestito da un consorzio di cooperative del Lazio, e due settimane fa invece è diventato il gestore la cooperativa Auxilium, che è una cooperativa francese, e hanno tolto gli autobus che portavano da Castelnuovo alla stazione, e invece di dare dei soldi ai ragazzi li stanno mandando in un magazzino dicendogli prendete quello che volete. E i ragazzi questa mattina si sono barricati dentro, le richieste sono appunto di avere dei soldi, che sia rimesso l'autobus, oltre chiaramente a poter prendere il documento con pratiche più rapide. E, a Castelnuovo ci sono tre camionette della Celere, l'esercito, sono intervenuti la polizia, è intervenuta con gli idranti e ci sono quattro fermi. E per adesso non ci sono altre notizie, in questo momento sono in trattativa, c'è un gruppo di ragazzi, di rifugiati politici barricati appunto dentro il cancello del centro d'accoglienza, che sta trattando con la polizia per capire il da farsi, e non ci sono altre informazioni in questo momento. E Castelnuovo di Porto non è nuova a forme di ribellione, insomma, no, nel corso. No, non è nuova forma di ribellione, soprattutto perché è un centro d'accoglienza per 300 persone, ma in realtà ne ospita più di 700. E appunto hanno cambiato diverse cooperative, i ragazzi sono pure senza lavatrici, quindi diciamo non è nuova queste cose, e anche se era un bel periodo che non si vedevano rivolte appunto barricati all'interno, ma in realtà 2-3 settimane fa c'era stata già una prima manifestazione pacifica, diciamo così, appunto contro questa cooperativa Auxilium, che è una cooperativa francese, e che tra l'altro, sempre nell'idea appunto di segregare queste persone che arrivano dallo straniero, stanno decidendo di dare ai ragazzi una postpay che è possibile utilizzare solamente in un negozio che eventualmente aprirebbero all'interno del centro d'accoglienza, quindi un ulteriore motivo di segregazione per non farli uscire proprio da quegli spazi.